Italia in controluce. Seconda edizione di Italia in controluce per quest'oggi 8 novembre, il racconto della cronaca italiana attraverso le piccole e le grandi storie del nostro paese. Buongiorno e buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Ebbene sì, questo è uno strano paese. Si denunciano fatti con prove provate, con fortissimi indizi, ma nessuno interviene. Solo dopo che i fatti avvengono, improvvisamente l'attenzione aumenta per poi diminuire. Prendiamo un caso, il caso di Pompei. Il reportage di Paolo Picone per Italia in controluce era andato in onda, pensate, ormai un mese fa. Nessuno da quel momento è intervenuto. Poi è arrivato l'annunciato crollo della Domus dei Gladiatori. E allora oggi vi riproponiamo ciò che avevamo denunciato un mese fa. Dopo averlo ascoltato vi domanderete, ma perché oggi nessuno si dimette? Pompei sarebbe un patrimonio visitabile soltanto per metà, è quanto denuncia l'onorevole Gianni Mancuso del PDL in una interrogazione rivolta al ministro per le attività culturali Sandro Bondi. Per il parlamentare il sito archeologico campano sembra versare in uno stato di completo abbandono. Molte parti degli scavi infatti sarebbero chiusi al pubblico e alcuni reperti conservati nei granai senza essere catalogati. A questo si aggiunga la mancata messa in sicurezza di alcuni edifici del sito archeologico. In più, sempre l'onorevole Mancuso lamenta l'irregolarità che sta alla base del servizio di guida turistico del sito, che apre il varco anche a numerose guide abusive. Accuse tutte strumentali e infondate, secondo il direttore degli scavi di Pompei, Antonio Varone. Sicuramente Pompei non è in uno stato di abbandono, sicuramente Pompei negli ultimi anni ha fatto dei passi notevolissimi, soprattutto per quello che riguarda la fruizione, la presentazione al pubblico. Pompei non è assolutamente visitabile al 100%, su questo concordiamo, non c'è problema, ma questo non si può disconoscere che era così anche nei decenni precedenti. La cosa che va detta è che negli ultimi anni sono stati aperti, e vi potrei far vedere i documenti, insomma, sempre più case al pubblico, sempre più edifici sono aperti alla libera fruizione del pubblico e in alcuni edifici anzi sono stati trovati dei nuovi sistemi di visita che rendono una comprensione veramente a 360 gradi fattibile della realtà archeologica vesuviana. Un altro dei problemi lamentati è la presenza di troppi cani randagi nel sito archeologico. I cani a Pompei, vi ricordo da piccolino, entrano con il primo turista ed escono con l'ultimo. Fanno parte in qualche modo del paesaggio urbano della città. Tenga anche presente che se vede le stampe del 700 o anche dell'800, le troverà sempre, anche nelle prime fotografie, qualche cane a Pompei. Non è un problema nuovo. Tantissimi cani vengono adottati dai visitatori stessi, ovviamente con la LAV, con le associazioni animalistiche si è provveduto a microcippare tutti questi animali, a fare di ognuno una scheda sanitaria, di dare ad ognuno un nome e ben 27 cani sono stati adottati e ora sono felicemente all'interno di famiglie. E poi c'è la questione della messa in sicurezza degli edifici, non tutti sarebbero a norma. Non dimentichi tuttavia che stiamo parlando di 1500 edifici. Vediamo, un restauro completo di un edificio, quanto tempo e quanti soldi richiede? Parecchio. Lei pensa che se io ne restauro quest'anno 20 o 30, ma io ho fatto veramente un ottimo lavoro, ma tanto, solamente che poi me ne rimangono altri 1470, capisci? E se vogliamo fare il criterio della rotazione, vede che prima di arrivare nuovamente al primo, dovrebbero passare molti, molti anni. Voler tenere tutta Pompei aperta, ogni singola casa, quanto personale di custodia, richiederebbe, quante sono le possibilità di impiego dei custodi. Noi stiamo facendo veramente dei salti mortali per aprire questi nuovi percorsi di visita. Per il direttore degli scavi archeologici, la sopravvivenza di Pompei dipenderà soprattutto da un fattore: rendere la città viva all'interno di una società viva. E c'è anche una novità degna di nota, ovvero l'inizio del restauro di due edifici tra i più importanti del sito archeologico. Abbiamo cominciato da poco il restauro alla Villa dei Misteri, forse il più emblematico degli edifici pompeiani. Tra breve finiranno i restauri alla Casa dei Vetti, almeno per la prima parte, in modo che sarà nuovamente possibile aprirle al pubblico. Insomma, ad ascoltare il direttore degli scavi di Pompei, le accuse e le lamentele mosse negli ultimi tempi sarebbero del tutto infondate, anche se non è facile gestire Pompei. D'altra parte siamo persone che, insomma, siamo votate. Chi sta qua è perché ci crede veramente. Italia in controluce. L'usura è uno degli affari illegali più importanti delle mafie. Monica Ceravolo racconta fatti di usura avvenuti a Roma e nel Lazio. Qualche giorno dopo, Fausto avrebbe dovuto pagare fornitori. Sul suo conto in banca, però, non c'era un euro. L'idea era quella di chiedere un fido così da poter far fronte agli impegni presi, ma le garanzie si rivelarono insufficienti e il fido venne negato. Quindi, racconta Fausto agli investigatori, viste le non ottimali condizioni economiche in cui versavo, ho chiesto in giro se ci fosse qualcuno disposto a prestarmi soldi. È il primo passo di un percorso maledetto che ha portato Fausto, un commerciante della provincia di Roma, a finire nelle mani degli strozzini e indebitarsi peggio di prima. La sua è una storia come tante, troppe, come sa bene il questore di Roma, Francesco Tagliente. L'usura è un fenomeno allarmante, un reato che possiamo definire vigliacco, perché sfrutta momenti di difficoltà economica, momenti di particolare fragilità della persona, e le mancate denunce probabilmente vanno ricondotte alla vergogna, alla speranza di risolvere il problema, alla paura di perdere tutto e a volte al timore di ritorsioni. L'usura si presenta sia da parte di grandi organizzazioni criminali sia da parte del vicino di casa che utilizza l'usura come sistema di investimento dei risparmi. È facile infatti trovare qualcuno disposto a prestare denaro, difficile è liberarsi dalle maglie dell'usura. Dopo aver sparso la voce che gli servivano soldi, Fausto è stato avvicinato da un uomo col quale ha trattato un prestito di 10.000 euro. Ne ha ricevuti 2.500, ne ha dovuti restituire quasi 26.000. Alla fine, disperato e impaurito dalle minacce, ha scelto di denunciare i suoi strozzini. E questa è una rarità, pochissimi denunciano. Dall'inizio dell'anno a oggi, solo in 10 casi le vittime si sono rivolte alla polizia, più di 100 invece i casi scoperti sul campo. Gli ultimi episodi emersi nella capitale hanno manifestato anche il coinvolgimento di alcuni personaggi legati alla vecchia banda della Magliana. L'usura era una delle specialità di quell'associazione criminale per reinvestire i soldi provenienti da altre attività criminali. In prima linea a contrastare il fenomeno c'è il capo della squadra mobile di Roma, Vittorio Rizzi. L'usura è un fenomeno patologico che è legato al bisogno di denaro, e su questo bisogno di denaro coloro i quali nel passato hanno militato nella banda della Magliana hanno scoperto che ci sono grossi margini di guadagno nel praticare l'usura. Quando manca la denuncia, il percorso per gli investigatori è un percorso in salita. L'usura è un reato a cascata, infamante per chi lo subisce, pericoloso per la società. L'usurato si ritrova in una condizione analoga a quella che è la situazione del tossicodipendente. Quindi, come il tossicodipendente finisce per diventare un piccolo spacciatore, l'usurato può, perché non sempre accade, rischiare di diventare anch'egli un intermediario nella ricerca di clienti da procacciare all'usuraio, e quindi in questo modo cercare di diminuire la pressione debitoria su di lui. Per liberarsi c'è solo una via d'uscita: denunciare. Seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. Sul nostro sito radio24.it potete riascoltare tutte le puntate andate in onda dalla 18 di gennaio, due edizioni. Tre modi per comunicare con noi sono Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, la mail controluce@radio24.it. Torniamo domani puntuali alle 6:30 con nuove storie su Radio 24.